La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Premetto che la domanda è mal posta, perché i figli si fanno in due. Dato di fatto, però, almeno nella vulgata più calcata, è che le donne italiane non facciano più figli. Non è che poi questo problema non ci faccia dormire la notte, però vale la pena forse di capire qual è il motivo, se ci sono i motivi per cui le donne facciano meno figli. Posso già anticiparvi da quelle che sono testimonianze personali, individuali, confessioni raccolte. Beh, sai, si arriva sempre più tardi a avere una situazione di tranquillità per poter decidere di aprirsi alla maternità. È vero per le donne, ma è vero anche per gli uomini. Finché uno non ha un barlume di tranquillità e sicurezza di poterli dignitosamente mantenere, almeno nella nostra scala dei bisogni e delle necessità, uno dice vabbè, rimanda, lo faremo. Ma esistono anche altri motivi. Non si trova mai un uomo decente per decidere di farci un figlio assieme. È vero questo? Non è vero? Esiste una sorta di selezione di colpo d'occhio in cui il maschio alfa viene rintracciato nella massa dei frequentatori, della grigia folla, dei colleghi, dei possibili pretendenti. Dice, sì, quello sarà il padre reale per i miei figli. Accade veramente questo? O semplicemente un modello di autonomia esasperato fa sì che a un certo punto una donna si faccia due conti, dice ma chi me lo fa fare di rinunciare alla mia autonomia, alla mia libertà, alla mia compattezza fisica, alla mia tenuta viscerale per dedicarmi a una prole che in realtà mi massacrerà la vita e il tempo per una quindicina d'anni, dopodiché non mi servirà più a nulla, saranno soltanto problemi. Io ve l'ho posto in maniera molto basica e anche lievemente rozza. Vediamo se questa mattina l'attento pubblico femminile saprà darmi qualche risposta. 800 24 00 24. Le donne italiane di oggi diventano madri più tardi, fanno meno figli e una percentuale sempre più alta di loro non partorisce. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat sulla situazione del paese nel 2010 che spiega. Le donne nate nel 1970 hanno avuto in media 1,4 figli, quelle nate nel 60 circa 1,7 e quelle del 40 quasi 2. Aumenta anche la quota di chi non diventa madre. Secondo le stime Istat, alla fine del percorso produttivo, a non aver avuto figli sarà circa il 20% delle donne nate nel 1970, contro una percentuale del 13% per le generazioni del 1960 e del 1940. Un maggior numero di donne delle generazioni più giovani, dunque, una volta divenute anziane, non avrà figli che potranno prendersi cura di loro. Che nel classico modello di famiglia patriarcale si facevano molti figli, beh, anche perché venivano i figli, non è che ci si poteva mai il problema di disgiungere l'atto coniugale dal fatto che poi producesse figli, ma perché servivano, perché erano importanti, erano necessari, servivano braccia, ma soprattutto un certo numero di figli. Nelle classici ricordi di un cinquantenne sono quelle vecchie zie un po' svampite, costrette a rimanere zitelle per occuparsi dei genitori. C'era sempre una quota parte della figliolanza che a quelli sarebbero dovuti occupare di genitori anziani. Ma poi, sai, sono arrivate le badanti bielorusse, nessuno si pone più il problema che un figlio possa poi essere così indispensabile a pensare alla nostra vecchiaia. Dai segni premonitori, da alcune caratteristiche che non possiamo far meno di trascurare nella considerazione e atteggiamento dei nostri figli e nei nostri confronti, tutto ci farebbe presagire che l'ultimo dei loro problemi sarà un domani cambiarci il pannolone. Quindi non è più nemmeno per questo problema. Perché allora le donne non fanno più figli? 800 24 00 24. Quando decidi di non avere figli, c'è un punto in cui gli altri ti fanno sentire anormale. Io ormai non ce la faccio più a sentirmi dire «Ma quando è che farai un figlio anche tu? Ormai è ora!» Vorrei mettermi a urlare «Che non voglio figli!» Ma riesco sempre a trattenermi. So anche che al mio ragazzo gli pesa molto questa cosa, credo. E penso che finirà col dividerci. Ma è più forte di me, Clara. Noi siamo andati a raccogliere in rete delle testimonianze in cui ci sono appunto alcune spiegazioni, cioè una prima gamma di risposta alla domanda che si fa. Una donna trova un uomo, finalmente riesce a prendere un uomo con labili speranze che possa comunque stare con lei un tempo superiore al fine settimana o a riempitivo in altri spazi liberi, e quindi decide: ma con quest'uomo forse riuscirò a dividere la vita o a stare assieme o a sposarmi. E comincia in lei questa sorta di guazzabuglio ormonale, per cui si sente fibrillare e dice: sai, sono in età fertile, comincia a guardare l'orologio biologico. Oggi le trentenni cominciano a parlare di orologio biologico a 30 anni, eh? L'orologio biologico mi dice che devo fare un figlio. Ma le nostre mamme e le nostre nonne c'avevano un orologio biologico? Non lo so, non mi sono mai posto il problema. Comunque oggi la donna metropolitana ha l'orologio biologico. Quando la donna comincia a parlare di orologio biologico, naturalmente forse non lo sa, l'uomo comincia a scappare, a temerla, a chiamare gli esorcisti, a tenerla a distanza col forcone, perché una donna che parla di orologio biologico è una donna che vuole figliare. E questo non è che sia poi il massimo per la normale popolazione maschile, almeno alle nostre latitudini, che è preoccupata di dover andare in palestra, di depilarsi, di trovare luoghi ameni per passare i fine settimana, deve anche poi pensare che ogni tanto dovrebbe anche uscire da casa dei genitori e andarsi a cercare un lavoro. Ecco, in questa complessità come ci districhiamo? Cristina, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se riusciamo a eleggerla come campione significativo della condizione femminile contemporanea. Mi sente? È pronto? Sì, non ho capito. Allora, adesso campione, non esageriamo. Io ho fatto una scelta di provare a crescere sul lavoro, e tutte le volte che mi veniva proposto un lavoro un pochino più importante mi veniva chiesto quali erano le mie intenzioni nei confronti di eventuali prole. E in quel momento, visto che mi sentivo molto responsabile verso chi mi dava fiducia, promettevo, e poi alla fine, come dicevi tu prima, l'orologio biologico è passato, e adesso però sono contenta di questa condizione. Perché? Perché comunque ho sublimato attraverso un compagno che comunque due figli ce li ha. E vabbè, hai preso in prestito i figli di un'altra. Ma vabbè, ma però non cioè, diciamo che faccio l'amica, non è che proprio faccio, non mi sono surrogata nel suo ruolo di vice mamma, assolutamente. E poi ho cercato di adottare bambini a distanza che magari avevano bisogno, e in questo modo però. Quello fa sentire buoni, anche a me mi arrivano dei pliani ogni tanto. Grazie papà che mi hai fatto crescere, ma è sempre le foto dello stesso bambino, ormai c'era 50 anni, però mi fa piacere. Io ho fatto di più, nel senso che mia madre l'anno scorso ha compiuto 80 anni ed era un po' lì il problema di non averli fatti diventare nonni, e allora invece ho fatto una grande festa con 100 Ma quanto rompono le scatole le nonne, le mamme? Non ci fai diventare nonni, non ci dai nipotini, un bel nipotino, esiste ancora questo fatto? Assolutamente sì, ed è lì che mi sono sentita diversa rispetto a tutto il resto, anche perché cioè lei per far contenta la vecchia sarebbe stata quasi disposta a fare un figlio. Cioè, diciamo che mi sono sentita in colpa nei loro confronti, però poi alla fine ha deciso la mia testa. Quando ci libereremo di questi sensi di colpa delle generazioni precedenti? Sarebbe già un bello sforzo riuscire a non instillarle nei nostri figli. Comunque, diciamo, il vero problema era soddisfare la madre che voleva il nipotino. Esatto. Dal suo punto di vista non ha sentito l'orologio biologico, quindi non ha avuto questa necessità impellente della maternità. È stata al patto, che è un patto scellerato, però esiste, è inutile far finta che non esista, certo. Che nelle aziende a un certo punto dicono: guarda, io investo su di te, ma che intenzione hai? E ti fanno capire, te lo dicono molto francamente, capito? Uh-huh. E d'altronde non se ne può nemmeno fare una colpa. Se un'azienda investe su di te, è chiaro che una donna che poi fa un figlio, nel periodo importante in cui deve pensare al proprio figlio, diventa un vulnus per l'azienda in cui ha investito. Non so come farla, è difficile far collegare. Mi verrebbe da dire che che non dovrebbe essere così, però riesco anche a capire chi fa questo discorso, sinceramente. Posso aggiungere solo una cosa? Oggi, a 47 anni, è diventato un vantaggio competitivo il fatto di non aver figli, il fatto di essere donna, perché adesso certo. Ma no, indubbiamente. Indubbiamente. Ma, quindi adesso diciamo che questa cosa qui. Non ci prendiamo in giro, esattamente così. Così. Non possiamo far coincidere due universi che in realtà non hanno punti certo. In comune. È vero, certo, sarebbe bello avere le aziende con gli asili nido, con le mamme con la tetta fuori che allattano il bambino mentre fanno una riunione di management, ma è impossibile, non esiste. O l'uno o l'altro. Bisogna fare delle scelte. Grazie, ma 47 anni non sei vecchia, pensavo più vecchia. No, no, perché è vecchio, sono una sbardina. Allora che dice, guarda, dice ormai l'orologio biologico, fanno i figli. Vabbè, insomma, però adesso col cavolo che mi metto a far figli, adesso ma no, ma chi te lo fa fare, ma giustamente. Grazie Cristina. Michela, buongiorno Michela. Sì, buongiorno, ho appena sentito la signora che dice delle cose giustissime. E io sono nella stessa situazione, praticamente libero professionista e con marito libero professionista, quindi... diciamo così, in Italia è un disastro perché non sai mai dove vai a... c'è sempre tutto molto molto precario. Disastro, chi vive sotto i ponti sta peggio, non vi potete lamentare. No, sono d'accordo, però purtroppo quando hai un po' di coscienza non mi sono venute un sacco di paure, sì, paure di dire sì ce la farò, ce la faremo, tutte e due che comunque cerchiamo sempre lavoro. Ma paura per cosa? Paura per cosa? Per non avere i soldi per mantenere i figli? Sì. Cioè, mantenerli con un livello di vita adeguata alle vostre aspettative, perché per mantenere i figli sì ci vuole poco, li mantengono le persone, infatti, io vedo quello che dice mio marito, infatti lui voleva avere figli e io sono sempre rimasta molto molto, cioè lei si tirava indietro quando lui diceva dai facciamo un figlio. Esatto, esattamente il contrario di cose, e lui aveva voglia di essere padre. E lui ha voglia di essere padre e io ho molta paura, ho tantissima paura, e quindi questa. Ma ancora lei è in età feconda, potrebbe fare figli se vuole? Sì, sono al limite, come la signora precedente. Ma c'è l'orologio biologico? Cioè sente che squilla ogni mattina, ogni sera? No, allora che problema c'è? Non si ponga il problema. No, suo marito se ne farà una ragione, o lo andrà a fare con una giovane bielorussa, non so, troverà un altro sistema. Questo è anche vero. Però comunque di solito succede così, alla fine poi i mariti trovano una vigorosa ragazza che viene da paesi lontani, che non ha nessun problema, gli fa fare il figlio, anche per quel figlio è per lei un'assicurazione a vita, quindi va bene. Sono d'accordo, solo che appunto essere comunque. Però guardi, ci sta tutto, io non lo dico con orrore e scandalo, va benissimo. Se diventa una risorsa importante e c'è un desiderio comunque di farlo su persone che vengono da altri posti, se le nostre donne hanno fatto questa scelta, mi sembra una perfetta compensazione. Sono d'accordo, però accettarlo è sempre difficile, molto difficile. Allora lo faccia finché è tempo, così non avrà rammarichi, non lo so, non credo che sono scelte poi uno spartiacque, alla fine uno fa un figlio, lo fa anche in allegria, non è che sia quelle cose, si fa, si tira su, alla fine si fa di tutto, si fa, ecco, non è che, sì, cambia la vita, è una notevole ancora rispetto al nostro desiderio di leggerezza. Però non è che c'è morto mai nessuno per questo. No, d'accordo. Comunque. Ilaria, grazie mille. Lei, Ilaria, questa mattina abbiamo. Ilaria. Pronto? Lei invece è un esempio di scelta eroica. Sì, ho chiamato perché appunto volevo raccontare un po' la mia storia, che è diversa, credo. Io ho 28 anni, quindi non rientro nella fascia a rischio. Alta. Esatto, e in pratica brevemente io lavoravo in banca e con contratto di apprendistato, quindi anche un buon contratto, e al momento di insomma avere mia figlia, che oggi ha 2 anni, subito insomma mi è stato chiesto cosa volevo fare, che intenzioni avevo. Io le premetto che ho lavorato fino all'ottavo mese, perché... Quindi lei era coperta dal punto di vista... Era coperta sulla sua gravidanza? Sì. Non era sì, obbligata sì, a licenziarsi, come accade in certe aziende? E no, quindi qual è il problema? Assolutamente, le dico, l'effetto è andata così, che poi al momento in cui... Quindi ho lavorato fino all'ottavo mese, tutto bene... Al momento di rientrare, per motivi di famiglia, avevo bisogno del trasferimento, ma mi hanno candidamente detto che il trasferimento non era possibile perché già ero stata in maternità. C'hanno ragione. Ecco, e per una serie di motivi legislativi. Sì, ma non è obbligo trasferirla, penso. Sì, insomma, a parte la vicenda di per sé, quello che volevo dire è che io a 28 anni ho deciso di andar via, perché appunto... Non è che l'hanno licenziata, è stata una sua scelta. No, non mi hanno licenziata, è stata una mia scelta, però mi hanno messo nelle condizioni di non poter continuare, perché mi hanno messo tutta una serie di paletti, ma quello che volevo dire ad esempio, un'altra cosa. Ad esempio mi hanno fatto pesare, quando sono andata a parlare con il personale, il fatto che ero stata in maternità. Ma quella è una cosa emotiva, ci provano sempre i capi del personale. Sì, lei poteva rispondergli. Ho preso la maternità obbligatoria, solo i 5 mesi, non è che ho preso altri mesi. Lei ha tutti i diritti di prendere quello che la legge le consente di prendere. Appunto, però ovviamente... È logico che poi le aziende, i colleghi stessi... ti fanno il muso lungo, sembra che te ne approfitti, ma di questo bisogna assolutamente fregarsene. Però quello che volevo dire è che io mi sono rimessa in gioco anche perché avevo l'età per farlo. Fare i figli a 40 anni forse non te lo permette. Se lei, diciamo, lei adesso è molto giovane, ha un figlio di 2 anni, lei volendo quando entra in età da scolastica può rimettersi benissimo in gioco sul lavoro e c'è un figlio che va avanti per conto suo. Pronto? Sì, io la sento. No, voglio dire, ha fatto una scelta, visto se la sentita di farla, nell'età giusta, tutto sommato. Appunto, quello che volevo dire è questo, cioè che alla fine aspettare tanto poi non ha senso, perché io adesso ho ancora tutto il tempo per ricominciare a lavorare come sto cercando di fare e di rimettermi in gioco. A 40 anni ciò non sarebbe stato possibile. Ma infatti quello è il problema, uno investe tutto, diciamo, nel lavoro, poi c'è l'orologio biologico che comincia a squillare e viene il panico perché uno non sa dove mettere le mani. È sbagliato. Anche vabbè, adesso non diamo lezioni, ognuno poi l'esistenza... No, nel senso che alla mia età si ha anche più forza, più volontà, più entusiasmo per crescere anche un bambino piccolo che comunque è faticoso. E che richiede tanti sacrifici e anche tante rinunce, però insomma porta anche tante cose belle. In ogni caso è più facile farlo ora. Quelle belle devono ancora venire, aspetti, è solo 2 anni. Il bello deve venire. Auguri. Paola Leonardi, buongiorno. Buongiorno. Paola Leonardi è una sociologa, autrice di Perché non abbiamo avuto figli, donne speciali si raccontano, edizione Franco Angeli. L'ho fatta ascoltare la prima reazione a caldo delle nostre ascoltatrici, che sono un campione molto significativo poi dell'essenza nazionale. Lei ha scritto un libro intervistando alcune donne che avevano posti di rilievo nella società, alcune anche conosciute, attrici, personaggi comunque noti, che le hanno dato delle letture individuali del perché non fanno figli o non hanno fatto figli. Trova dei punti in comune rispetto alla reazione delle donne comuni del nostro pubblico? Ma qualcuna, ma non tante, nel senso che la nostra è stata la generazione degli anni 70 e quindi allora è stata la prima generazione che è passata dalla maternità come destino alla maternità come scelta, quindi avevamo un obiettivo, come dire, quasi politico, nel senso che avevamo dell'altro di cui occuparci, non era tanto perché i figli sono pesanti oppure perché ci sono delle problematiche sociali, no? Tipo che ti licenziano, ti fanno firmare i fogli in bianco, insomma non hai gli asili nido. Ecco, i problemi, noi non abbiamo fatto figli perché avevamo dell'altro a cui dedicarci, che per noi era molto importante, non so, ad esempio, non solo scrivere libri, perché tante donne che hanno figli e scrivono libri, ma dovevamo cambiare il mondo, capisci? Però il mondo è rimasto lo stesso. Delle donne, di tanti libri scritti alle donne, di qualcuno è rimasta traccia indelebile, ma la maggior parte sono stati buttati al macero, quindi è stata una generazione che ha fatto una scelta, oggi però ritorna a fare i conti su questa scelta, secondo lei? Ma ritorna a fare i conti molto meno, secondo me, perché insomma intanto è stato detto che quello della maternità è un amore in più, non è necessario, non è necessario. E su questo non ci piove, abbiamo una visione noi laica dell'esistenza, diciamo, chi lo fa deve farlo convinto, perché non è una cosa che scelta a termine. Voglio dire, ma esistono anche le ambivalenze, quindi noi che facciamo anche le psicoterapeute vediamo, ad esempio, le giovani donne non sono sterili, perché quando fanno gli esami si vede che non sono sterili, però non sono neanche feconde. Molto spesso, anche quando decidono di volere un figlio, non restano incinte. Quindi, voglio dire, c'è qualcos'altro. I giovani uomini in questo non hanno nessuna parte, secondo lei? Come? I giovani uomini non hanno nessuna parte in questa incapacità poi di generare. Certo, senz'altro, senz'altro che c'è anche questa parte, senz'altro. Però io sto parlando di quando è già stata verificata questa cosa anche dei compagni. Quindi esiste dal suo punto di osservazione una sorta di sterilità indotta, non giustificabile, non organicamente confutabile, che fa sì che è nell'aria una sorta di freno alla maternità, perché ciò rappresenterebbe probabilmente un freno all'espansione emotiva, professionale e sociale della donna. Fermiamoci un istante per le informazioni della borsa e poi continuiamo con Paola Leonardi. Melog, la realtà condivisa. Per quanto riguarda la nostra coppia, non ci considero una coppia a metà. Siamo una famiglia e sinceramente mi dispiace che si possa pensare che ci manchi qualcosa. Siamo completi e il senso della nostra coppia non è nella procreazione, ma nel fatto che vogliamo stare insieme. E secondo me dovrebbe essere così anche per chi ha o vuole avere figli. Proviamo un senso di vuoto? A livello personale mi capita di sentirlo. Ma ritengo che i figli non debbano essere messi al mondo per riempire un vuoto. Elena. 800240024, stiamo cercando di toccare con leggerezza, per quanto sia possibile, il tema delle donne che non fanno figli. Il dato che in questo momento mi sembra più evidente è che le donne dicono non facciamo figli perché ci viene chiesto di fare una scelta tra mondo del lavoro e condizione di madre. È proprio vero questo? È veramente questo il vero motivo? È soltanto questo il motivo preponderante? Non è che in fondo un modello di vita libera, sciolta, autonoma, in cui si è padroni del proprio tempo, non collima più tanto con la vita di una madre che comunque è una gestione un pochino più difficoltosa al proprio tempo? 800240024. Giorgia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 43 anni e in questo momento faccio la libera professionista, sono un agente di commercio. All'orologio biologico? Io sono già, ho già smesso di essere fertile, ma ho avuto la fortuna di fare una scelta a 35 anni, quando avevo invece, ero in carriera all'interno di un'azienda. Ho scelto di fare un figlio, l'azienda mi ha appoggiato stranamente e positivamente, nel senso che mi hanno tenuto in stand-by. Quando sono rientrata dalla gravidanza, dalla maternità, mi hanno promosso, per cui assolutamente un esempio positivo. Solo che io dopo 3 mesi ho preferito fare la mamma, nel senso che comunque non riuscivo più. Ha mollato l'azienda? Ho mollato l'azienda, un posto sicuro e mi sono tornata a fare l'agente di commercio, quello che facevo in precedenza, cioè dove sono partita, e quindi ho intrapreso con successo una carriera e a 41 anni ho avuto il secondo bambino, per cui ho vissuto anche l'esperienza di essere una madre con la partita IVA. Quindi è stato uno spartiacque deciso questa scelta qua? Assolutamente. Mio marito... Una cosa poi mi dice Giorgia, è veramente così drasticamente impossibile conciliare le due figure della madre e della donna che comunque non si nega nulla nel lavoro? Diciamo che il tempo che richiede la professione che facevo in precedenza con viaggi dal lunedì al venerdì voleva dire mettere a tacere la madre. E io non ci sono riuscita, nel senso che comunque non vedere addormentare tuo figlio tutte le sere, non vederlo svegliarsi al mattino, sì, per me non è stato possibile. È un po' tanto, diciamo la verità, sì. Eh sì, si chiede un po' tanto. Nella realtà dei fatti ho grosse soddisfazioni con il mio lavoro oggi, prendendomi tutti i miei spazi. Ribadisco, ho trovato anche questa seconda volta un'azienda che mi appoggia e mi permette questo. quindi... Non posso assolutamente, sono stata fortunata da questo punto di vista, nel senso che comunque ho incontrato due aziende che mi hanno permesso. È stata fortunata. Sentiamo Sabrina. Sì. Sabrina, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io ho 35 anni, ecco, forse inversione di tendenza, ho già due bimbi, uno di 6 e una di 3. Il primo non era stato cercato, diciamo, è arrivato, stavo già convivendo, però per fortuna è andato tutto a lieto fine. Ovviamente, anzi, questo è il mio pensiero, ora a 35 anni posso rimettermi in gioco, perché anch'io per qualche anno ho dovuto abbandonare un lavoro, lavoravo in uno studio notarile, un lavoro che mi piaceva molto. A 35 anni posso dire ora inizio a respirare, posso rimettermi in gioco, però penso che ci siano un po' tre tipologie di donne: chi veramente ha messo la carriera davanti a tutto ed è il proprio obiettivo nella vita, chi come me dice vabbè, mi accontento un po' di un lavoro a volte modico, però cerco di portare avanti la mia famiglia, e chi si nasconde dietro a un dito, chi si nasconde dietro alle serate, alla palestra, non ho tempo, è a 40 anni, non so, si sveglia e dice ma forse ho già 40 anni, devo avere un figlio, ma un figlio non è chi, appunto, come dicevate prima, chi ti dovrà cambiare il pannolone. Mi sta bene se lo fa, ma non deve essere un riempimento, ho già 40 anni, oddio, sono già a metà della mia vita. Ecco, lei dice una cosa molto molto giusta: un figlio non è un'alternativa allo stare soli. No, ma stiamo scherzando? Assolutamente no, anche perché tu il figlio lo devi arricchire durante gli anni, lo devi aiutare, lo devi sostenere, lo devi rinforzare soprattutto. Quindi Sabrina, diciamo, non si fa un figlio comunque perché è un elemento necessario alla completezza della madre, si fa perché è una responsabilità verso un'altra persona. È un amore, è un frutto della coppia dal mio punto di vista. C'è chi mi potrebbe dire ma io sto benissimo con col mio compagno, mio marito, e non voglio avere frutti. Mi sta bene, però non piangere poi quando hai 40-45 anni, comprati un cane, mi viene da dire, non so se rendo l'idea. Sì, sì. Ecco, e questo è il mio punto di vista. Trovati un amante. Ma ci sono tanti sbagli al giorno d'oggi. Però chi mi dice non ho tempo è non aver voglia di avere delle responsabilità. No, perché il tempo, è quello che volevo dire prima, il tempo si trova comunque. A parte la signora che ha detto che ha una professione, che deve fare viaggi tutta la settimana, quello lo capisco, ma ci sono persone che fanno figli pur avendo questo tipo di necessità. Poi è la qualità del tempo che si dedica a un figlio. Se uno riesce a dedicare per un periodo della sua vita soltanto un giorno a settimana, il figlio si accontenta di quel giorno a settimana, se questo ha un senso. Non può il figlio, anche perché tu vedi giorno dopo giorno che lui cresce, e io gli aiuto a fare i compiti il pomeriggio, lavoro a volte con il computer alla sera, sono anche volontaria di Croce Rossa, perciò se ho inserito anche questa cosa, faccio il turno settimanalmente per non togliere il tempo ai miei figli il weekend. Cioè, diciamo che non basta comunque organizzarsi molto bene, e la cosa per me più importante è che devono essere un frutto, un amore, e non a un compensare questa, diciamo, che ti può venire. È una vicenda, diciamo, è una vicenda non superficiale, non banale, frutto, non amore. Molte volte i figli vengono e uno non ci pensa, poi ce li ha. Lei stessa o un'ascoltatrice ha avuto testimonianza, ce l'ha, non è che poi sempre un figlio, c'è una scelta d'amore, facciamo un certo, figlio. Molte volte guarda, capita, uno sbatte la testa sul muro, poi se lo tiene, e poi dopo è il migliore dei padri o delle madri. Andiamo a Paola Leonardi. Sono subissato alla telefonata, non me l'immaginavo questa mattina aver toccato un problema, però evidentemente sì, giaceva sotto la cenere. Non si riesce a parlarne, è ancora una scelta scandalosa quella di dire che uno non fa un figlio perché manca il desiderio. I figli si fanno per desiderio, come dicevano anche alcune ascoltatrici, no? Hanno detto non per riempire un vuoto, e meno che mai per aspettarsi che dopo ti curino quando sei vecchio, insomma, questa qui basta vedere dove mettono i figli. Se noi applichiamo modelli arcaici a una contemporaneità che non li ammette più, è questo il problema. Ma no, non è solo questo, è che prima le donne non si ponevano il problema del desiderio, doveva essere un destino che era quello, se sei donna sei anche madre, non c'era una separazione. Adesso le donne possono essere donne senza necessariamente essere madri, tant'è vero che all'estero hanno coniato la famosa child free o childless, no? Non siamo childless perché siamo donne senza figli, ma child free perché siamo libere di non avere figli. Ecco, il concetto di desiderio e di libertà che prima non c'erano. Ma tutto questo noi lo diciamo per dare delle spiegazioni ai numeri, però mi sembra che dalla reazione questa mattina io ho capito molte cose in più, che in realtà è molto più variegato l'universo delle scelte o delle non scelte, ci sono anche molti giustificativi, è chiaro, il lavoro e via dicendo, ma mi sembra che stia passando il principio che una donna può lecitamente decidere di non avere figli e non per questo sentirsi additata. Quando sarà esaurita la generazione delle nonne ricattatrici che diranno ah non mi dai un nipotino, e finirà presto per motivi anagrafici, nessuno più porrà un problema a una donna perché non fai figli, penso. No, ma soprattutto perché appunto i figli si fanno per desiderio proprio e non per desiderio del marito o delle nonne o dei genitori o delle zie, no? Quindi... Sì, così dovrebbe essere, non sempre accade, sì. Così dovrebbe essere. Certo. Però non è ancora, non passa ancora così facilmente questo concetto, perché... Ma l'ho detto, problema anagrafico, quando saranno sterminate dalla natura, felicemente, l'ultima generazione, i nonni rompiscatole diranno fammi un nipotino, non ci sarà più il problema. Sì, ma anche perché questo arrivano ai condizionamenti, insomma, condizionano, ci sono anche i desideri indotti, no? Quindi è per quello che ad esempio noi che abbiamo fondato un centro autostima donne a proposito di che cosa fare, di cosa mettere al mondo se non si mettono al mondo i figli. Si fanno delle scelte per migliorare il mondo delle donne, ad esempio noi che siamo venute dal movimento delle donne. Cioè mettere, ma anche il mondo in generale, poi ognuno va a fare le sue scelte, il mondo è fatto di una serie di complessità molto, molto, molto vasta. Io secondo me è un momento in cui le donne possono tenersi abbastanza soddisfatte, almeno da questo punto di vista. Non mi sembra che esista una sorta di condanna o di scomunica della società nei confronti di una donna che non fa figli. È interessante capire, però, secondo me lo faremo fra un istante dopo l'informazione del traffico, che il passo avanti sarebbe che le donne non debbano più giustificarsi, dire il perché, il per come, per quando il lavoro. Non le faccio perché non mi va, non c'ho voglia. Fine. Melog. La realtà condivisa. Io non voglio figli. Ho altro da fare nella mia breve esistenza. Già lavoro con i bambini. Amo il mio lavoro, ma mi viene l'ansia a pensare di trovarmeli anche a casa, sinceramente. Non voglio dare soddisfazioni a mia madre e a mia suocera. Non voglio mettere al mondo un altro infelice. In un mondo del genere. Giovanna. Leggo su Twitter che una mia amatissima collega dice: sono quelle come me che non hanno figli perché romantiche, non hanno figliato con quelli sbagliati, semplice. Dice su donne e maternità: le donne sanno essere cattive, spietate, orrende con altre donne, soprattutto le mamme. È una collega che è romantica, non ha fatto figli perché non ha trovato un uomo che lei avesse mai giudicato in grado di fare da padre ai suoi figli. E questa è un'altra scelta, non bisogna nemmeno prendersela con lei, avrebbe potuto farne quanti ne voleva. Franco, buongiorno. Buongiorno. Allora, io parlo sia per la parte maschile che femminile. E come fa? Ha fatto un'operazione? No, perché con mia moglie ne abbiamo parlato tante volte. Ma quindi lei si fa interprete del pensiero di sua moglie? Esatto. Ha avuto una delega a rappresentare sua moglie? Sì. Trovo insopportabile, fra tutte le scuse legittime che ci sono, il lavoro, quella che sia una motivazione economica, perché è un insulto per le generazioni che ci hanno preceduto. Sì, questo l'ho detto anch'io, è giusto, sì, infatti. Questa è una roba immorale, perché se guardiamo in giro gli extracomunitari che sono molto messi in peggio di noi economicamente, fanno tantissimi magari figli, ne fanno di più, per cui è una scelta legittima non fare un figlio, ma la motivazione economica, come ho sentito all'inizio, magari quelli liberi professionisti che non li fanno perché poi o per il futuro incerto che non si sa. Guarda, le dico una cosa orrenda, ho sentito mamme porsi il problema che il proprio figlio in un interscambio fra scuole venivano dei ragazzi stranieri, ogni famiglia lo prendesse il ragazzo straniero, mamme a dire in una riunione, ma come facciamo noi? Mio figlio la mattina viene a scuola con la macchinina, minorenne non può portare un'altra persona dentro. Il problema è che il figlio che andava a scuola con la macchinetta non poteva portare il ragazzo straniero con lui, quindi non sapevano, era un problema. Sì. Quindi capisce, se il parametro è questo, è chiaro, dicono ma non possiamo mantenere un figlio. Se guardino allo specchio e si facciano un esame di coscienza. No, però lei ha detto una cosa giusta, lei non so se ha figli piccoli, ma se lei va oggi in una scuola... Io ne ho tre. Se lei va in una scuola elementare, non so come la situazione della sua città, a Roma... Vede bambini di tutti i colori, il bambino italiano è la minoranza, quindi ci sono i figli. Assolutamente sì, ma tenga conto che fra l'altro io ho parecchi amici che la media abbiamo tre figli, e io sono un operaio agricolo, mia moglie è un'operatrice sociosanitaria, cioè l'impiegato, l'operaio. Cioè i figli si mantengono oggi? Sì. E più si sale nella classe sociale, più o meno figli si fanno, per cui a questo punto è il problema. È perché maggiore il livello di attesa o perlomeno di... parametro di vita dignitosa che si fanno. È chiaro che mandare tutti i figli nella scuola americana, mandarli tutti a fare le 3 settimane bianche, vestirli tutti di primo acchitto firmati, è chiaro che è un peso. Allora dice: ne facciamo solo uno, così almeno ci possiamo permettere Gucci e vive felicemente, non avrà problemi. Rita, buongiorno. Buongiorno, io mi dispiace, non dirò niente di originale perché purtroppo è stato già detto tutto quanto. Vabbè, ci si sforza. Guardi, ho 48 anni, sono una libera professionista, mai fatto figli, mai fatto aborti, ho sempre avuto una vita sessuale molto consapevole, quindi ho sempre preso anticoncezionali per evitare gravidanze. Io non voglio figli, non ho mai voluti neanche da ragazzina. Devo dire, sono stata vittima anch'io delle varie congreghe di donne che ti fanno sentire: ma non fai un figlio, perché? Ma sei strana. E lei qual è la risposta, che dava? Io rispondevo sempre: perché tu li fai? Cioè, perché di chiedere a me perché non li faccio? Ma perché li fai tu? Cioè, sono due modi di vedere la vita diversi, semplicemente. Ma sento in questo. Lei ha sofferto molto per questo, la sento molto, molto reattiva. No, guardi, ho sofferto per il fatto che... non ho sofferto, mi è dispiaciuto molto, questo devo dire a onor del vero, non ho mai incontrato un uomo che mi facesse venire voglia. Probabilmente la mia non voglia di farli è stata, come diceva lei prima... Beh, questa è una parola pesante, io spero che... Sì. No, è perché comunque ho avuto un matrimonio lungo, due convivenze, quindi non posso dire di non essere una donna che ci ha provato. Però nessun uomo le ha fatto accendere, come scrive la mia amica su Twitter poco fa, se non vede un uomo che li fa scattare anche questo meccanismo, per molte facce, per molte lo farebbero con chiunque pur di farlo, altri esatto. Dice: perché devo fare un figlio? A me personalmente non mi importa. No, io, secondo me un figlio è l'unione di due persone che... No, lei ha detto una cosa giusta, cosa che nessuno finora ha detto. Il figlio anche, sì, la mamma è sacrosanta, ma si fa anche in due. Non eliminiamo del tutto il ruolo del padre, quindi legge giustamente: non ho mai incontrato un uomo che avesse la parvenza di poter essere padre di mio figlio, quindi già avevo poca voglia io. Figuriamoci se mi veniva voglia di farlo con un farlocco di quelli che ho frequentato nella mia vita. Grazie Rita. Giovanna. Pronto? Sì, eccomi. Buongiorno Antonio Nicoletti. Dunque, io volevo dire, io ho avuto l'esperienza in famiglia, fra amiche così. Dillo la verità, tu non hai il senso materno e fai bene se non vuoi avere figli, ma questa fase dura. Ma esiste il senso materno secondo lei? L'istinto materno, non so queste cose. L'istinto materno è che quando senti il bambino piangere, il piccolino, ti senti già qualcosa nello stomaco, ti senti... Ma quella è ossessione, è soffocare. Quando uno sente il bambino piangere, lo lascia piangere e finché non smette. Dottor Nicoletti, lei non è una donna. Vabbè, comunque così, non ho avuto questa fortuna, però ho avuto figli. No, sì, ho capito. Non c'è di peggio delle mamme che sono apprensive nei confronti dei figli. Ma non è quello, dottor Nicoletti, io non sono una fanatica, però l'istinto materno è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai. Poi, ma secondo me non esiste, secondo me ogni donna quando è ingravidata ha l'istinto materno per fare i figli. I figli sono un grosso sacrificio, hai soldi sì, hai soldi no. Sì, però Giovanna, guardi, io vengo dalla generazione, non so, sono più grande di lei, che siamo venuti su con questo incubo che siamo frutto di sacrifici. Ci siamo tanti. Basta di dire ai figli che sono frutto del sacrificio. Ci sono dei danni irreparabili. Non li fate. Se il figlio è frutto di sacrificio, non va fatto un figlio. Se il figlio è l'apprensione, la mamma che è stata sveglia, che si è massacrata il seno per allattarlo, si è squartata le viscere per partorirlo, ma chi se ne frega, non li fate i figli. Non li fate venire su con questa sorta di angoscia che le madri sono delle sorta di sante martiri perché hanno fatto un figlio. In altre popolazioni i figli li fanno camminando per strada, si inchinano un attimo, partoriscono, lo rimettono sulle spalle e continuano a camminare. Paolo Leonardi, a lei la conclusione. Che ho sentito. Scusi, mi sono un po' alterato con questa storia dei sacrifici, non ne posso più. No, ma c'ha ragione, ma infatti facciamolo, ho detto, per desiderio, quindi o si desidera o non si desidera, e poi l'istinto materno non esiste. Sono convintissimo. È una palla, ce l'hanno messo in testa da quando eravamo piccoli, ma insomma... No, però diceva quel signore che non più sono ricchi e meno fanno figli. No, io direi che le donne più sono colte, più sono istruite e meno fanno figli. Evidentemente la cultura allontana da questa necessità impellente, me l'ho già detto tante volte, per me verrà un'epoca felice in cui i figli si faranno su ordinazione, arriveranno a casa in un pacchetto e staremo tutti meglio. A domani. Melog, la realtà condivisa. We'll be right back.